Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, buonasera da Maurizio Melis. È il primo sistema di soccorso alpino che lega uomo e robot, nato grazie ai finanziamenti dell'Unione Europea sotto l'egida dell'Alma Mater Studiorum di Bologna. Il suo nome è Sherpa e dopo 4 anni di sviluppo è ormai arrivato a compimento. Sherpa sta per Smart Collaboration Between Humans and Ground Aerial Robots for Improving Rescue Activities in Alpine Environments. Come sempre, i nomi di questi progetti europei sono un po' troppo lunghi, ma insomma si tratta di un sistema a servizio dei soccorritori basato, come dicevamo, sull'uso di droni, robot terrestri e aeromodelli ad ala fissa. Ne parliamo con Lorenzo Marconi del Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione dell'Università di Bologna, che ha coordinato il lavoro di ricercatori provenienti, li abbiamo contati almeno da 6 o 7 istituti di ricerca sparsi in tutta Europa. Buonasera Marconi. Buonasera, salve. Allora, senta, parliamo subito di questi droni che voi utilizzate, perché, come dicevo, ce ne sono di diverso tipo, ognuno con delle funzioni ben precise, anche se poi tutti, insomma, cooperano in vista di un obiettivo comune. Partiamo da qui. Sì, sono tanti robot, aerei terrestri, e quegli aerei in realtà si distinguono in due: degli aeroplani ad ala fissa ad alta quota, il cui obiettivo è quello di riprendere la scena del soccorso ad alta quota, mandando a terra delle informazioni utili per ricostruire la scena del soccorso e aiutare la ricerca che poi è fatta dalle squadre, e robot viceversa un po' più snelli, quadrirotori, in grado di operare nelle vicinanze dei soccorritori, con degli obiettivi diversi, degli obiettivi in particolare negli scenari invernali di localizzazione veloce di dispersi in valanga. Questo è il target che è stato di Sherpa. Poi c'è un terzo tipo di robot, adesso ci arriviamo, che invece è un robot terrestre e ha tutte le sue funzioni. Quindi complessivamente intanto c'è un primo obiettivo di arrivare sul posto molto velocemente, no? E capire cosa è successo. Spesso quando i soccorritori arrivano non sanno che cosa si troveranno a dover affrontare, e questo già è un primo, sarebbe un primo risultato di un approccio di questo tipo. Assolutamente, con una differenza notevole fra scenari estivi e scenari invernali. Gli scenari invernali la tempestività, soprattutto nel discorso valanga, certo, è tutto. Negli scenari estivi la problematica è diversa, perché magari le aree da perlustrare sono molto più ampie, certo, ma marine tipicamente è meno critico. Certo, chiarissimo. Ecco, dicevamo di un terzo tipo di robot, che è un robot terrestre. Sì. A che cosa serve questo invece? È quello che chiamiamo il donkey, l'asino. È un robot che è appunto terrestre, un piccolo cingolato, un piccolo trattorino, in realtà anche equipaggiato con un braccio robotico. E l'obiettivo è quello di complementare la parte aerea, in particolare in Sherpa la parte un po' più accademica che abbiamo fatto è quello di implementare un cambio di batterie automatico del drone, quindi lo scenario in cui il drone, che è elettrico, quindi con durata limitata, atterra nelle vicinanze di questo trattore, e il braccio robotico in maniera automatica cambia la batteria dando nuova vita alla parte aerea, con l'obiettivo chiaramente di migliorare l'autonomia del sistema complessivo. Quindi una vera e propria squadra di droni e di robot che cooperano addirittura anche fra loro. Ecco, in questo paradigma come cambia, se cambia, insomma, il ruolo del soccorritore? Ma il soccorritore in Sherpa è centrale. L'idea è proprio quella di mettere in piedi un team eterogeneo, robot e macchine, appunto soccorritore che per noi è centrale. Lo chiamiamo il busy genius, il genio occupato in Sherpa, proprio perché è un genio in quanto ha una capacità cognitiva che non è, certo, di risoluzione dei problemi che non hanno certo questi droni, no? Assolutamente, certo. E nel contempo opera in delle condizioni di stress e di pericolosità che lo potrebbero in certi momenti rendere non presente o comunque non disposto a supervisionare l'operato dei robot, che devono quindi essere in grado, attraverso dei sistemi di intelligenza artificiale che hanno caratterizzato Sherpa, di capire in maniera automatica se il genio lo sta supervisionando e quindi in qualche modo il robot deve comportarsi da schiavo, ovvero se il genio è occupato e quindi deve avere dell'autonomia nel supportare il soccorritore senza inondarlo di informazioni inutili o non appropriate. E questo tra l'altro è esattamente lo stesso approccio utilizzato in un altro progetto di cui abbiamo parlato, in cui si cercava di assistere, in questo caso, i controllori di volo, anche questi piuttosto stressati, dove se gli si toglieva, no, l'ordinaria amministrazione, gli si consentiva magari anche di concentrarsi su emergenze o problemi particolarmente complicati. Senta, il progetto è concluso, è stato presentato lo scorso 20 febbraio a Davos. Le chiedo quali saranno a questo punto i prossimi sviluppi, se qualcuno soprattutto si è fatto sotto per utilizzarlo. Ma l'obiettivo è portare le tecnologie, quelle un po' più mature, veramente a essere prodotti definitivi, utili alle squadre di soccorso, in particolare al soccorso alpino che ci ha seguito in questo progetto. Sicuramente il drone per il soccorso in valanga è la tecnologia più matura che abbiamo sviluppato, e per noi adesso inizia questa fase critica di colmare l'ultimo salto tecnologico che porti questi droni ad essere veramente delle macchine utili in scenari realistici. Va bene, grazie, grazie Lorenzo Marconi. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, appuntamento come sempre a domani. Buona serata.